perfetto notte estate. Le 18.34, eccoci qui in regia Valeria Bernardi, in redazione in assistenza Valentina Ternullo, Laura Vanossi, Alessandro Schirano, al microfono Andrea Ferro. Buonasera, effetto notte estate. Vi ricordo i nostri numeri 800 24 00 24 per prenotare le telefonate, per SMS e WhatsApp 349-238-6666. Apriamo il nostro diario di quest'estate, sfogliamo nuove pagine attingendo dalla cronaca, dall'attualità, dai fatti e dai commenti del giorno. Come ormai ben sapete, sono tanti i temi che affrontiamo in successione nel corso delle due ore di programma. Stasera si parla di trasporti e norme anti-Covid, dello stato di salute delle nostre spiagge con i primi bilanci parziali della stagione, di eco bonus, poi torneremo idealmente sul ponte di Genova che dopo l'inaugurazione di ieri sta per essere aperto al traffico, parleremo di medicinali, ne consumiamo sempre di più e poi l'angolo dello sport. Archiviato il campionato, spazio alle coppe europee, al calciomercato, tra sussurri, grida e qualche incertezza sulla ripresa a settembre. E allora, in apertura, l'affare trasporti e norme anti-Covid, sicuramente l'argomento di più stringente attualità di questi giorni, in queste settimane di grandi spostamenti. Nel weekend abbiamo raccontato il pasticcio della capienza ridotta sui treni ad alta velocità, prima abolita e poi ripristinata, e a breve potrebbero scattare norme più restrittive sugli aerei. E poi ci sono le crociere, dopo il lungo stop tra qualche giorno le navi dovrebbero riprendere il largo. Marcello Ottavio, presidente di SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, e direttore dell'unità operativa di malattie infettive degli ospedali riuniti di Ancona, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, professore, sui trasporti si è fatta molta, troppa confusione, annunci, controordini, ma quali sono i margini di rischio a seconda delle varie modalità, professor Ottavio? Beh, i margini di rischio sono ampiamente gestibili. Il problema è vedere come e per quale tipo di trasporto. Evidentemente, parlo da un punto di vista medico, le regole sono sempre quelle. Gestione delle mani e con gel idroalcolico, delle mucose con la mascherina e distanza di sicurezza, non distanza sociale, ci tengo a sottolineare la differenza. E questo poi come viene declinato nei vari ambiti, questo è materia più tecnica che clinica. Lei comprende bene che in un treno di un certo tipo può essere declinata in un certo modo, in un altro probabilmente no, per cui comunque le regole sono sempre quelle. Però ci sono delle differenze evidentemente che talvolta si accavallano, perché siamo partiti con per esempio gli aerei, e ne parleremo più diffusamente più tardi, con gli aerei che prima esigevano, diciamo così, un distanziamento, non chiaramente gli aeromobili ma le norme, e quindi le compagnie un distanziamento, poi invece liberi tutti, ora pare si ritorni ad un distanziamento. Questa continua variazione delle norme induce evidentemente anche da parte delle persone un'incertezza, e in questo momento ce n'è già troppa. Secondo lei c'è stato un po' di errore da parte di chi avrebbe dovuto in qualche modo riassumere tutte queste norme, evitando questo tira e molla che appunto poi determina un senso anche di smarrimento, e ripeto, in questo momento lo smarrimento certamente non aiuta ad affrontare il momento? Ha certamente ragione, evidentemente anche noi tecnici addetti ai lavori siamo incorsi in questo errore, no? Spesso ci siamo divisi sulle interpretazioni da dare dei numeri, quando i numeri non dovrebbero avere una così grande varietà di interpretazioni. Allora, per quanto riguarda le regole da applicare nel trasporto, direi che sono abbastanza semplici. Ripeto, è una materia tecnica, perché bisogna vedere come all'interno di un aeromobile piuttosto che di un treno si riesce a mantenere questo metro di sicurezza, senza mai dimenticare che un ingrediente fondamentale è il buon senso del cittadino e della persona, ovvero si può riuscire a mantenere questa distanza di un metro in molte situazioni, e si può gestire l'igiene delle mani e la mascherina in molti tantissime situazioni, per cui direi di non dimenticare mai che il buon senso delle persone è un ingrediente fondamentale per tutte le situazioni. Ecco, con lei leggo i dati relativi ai contagi delle ultime 24 ore, sono stati 190, ieri 159, quindi c'è un leggero rialzo, le vittime sono 5. Lunedì erano state 12, il totale dei morti dall'inizio dell'emergenza è 35.171. 3 le regioni senza nuovi casi, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. Segnali sostanzialmente più positivi rispetto alla seconda parte della scorsa settimana. Secondo lei il virus è più debole o siamo più forti noi? Né l'una né l'altra cosa, ovvero chi pensava che il virus, un virus che prodotto dalla natura, possa sparire semplicemente per un cambio di stagione, probabilmente non ha mai aperto il libro della natura, che è fatto di organismi che sono fatti per sopravvivere secoli, millenni, eccetera, eccetera. Quindi era evidente che questo virus con l'estate non sarebbe sparito nel nulla. È chiaramente diminuita la circolazione del virus nell'ambito delle persone, per una serie di fattori, il lockdown, le misure di precauzione, la stagione favorevole che fa asciugare prima le goccioline di saliva che noi emettiamo parlando, respirando, tossendo e quindi diventiamo comunque meno contagiosi anche se siamo infetti, il fatto che viviamo d'estate in ambienti più aperti e quindi meno al chiuso, tutto questo ha contribuito a far diminuire enormemente la diffusione della malattia, del virus, ma non a farlo sparire. Era evidente che non sarebbe sparito nel nulla e quindi è evidente che in autunno avremo una partita da giocare, ma sarà una partita totalmente gestibile, diversamente da quella dallo tsunami che ci ha travolto nei mesi di febbraio e marzo, quando effettivamente siamo stati presi alle spalle. Questa volta non dovremo e non potremo farci trovare impreparati. Marcello Ottavio, presidente di SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, e direttore dell'unità operativa di malattie infettive degli ospedali riuniti di Ancona, grazie per essere intervenuto a Effetto Notte e buona serata. Grazie a voi, buona serata. E allora, dicevamo, focalizziamo l'attenzione su quello che succederà forse sugli aerei. Leonard Berberi, giornalista del Corriere della Sera, grande esperto di questioni aeronautiche, buonasera. Buonasera a te, buonasera a chi ci ascolta. Allora Leonard, si dice che il prossimo comitato tecnico scientifico potrebbe decidere di ripristinare in qualche modo il distanziamento a bordo degli aerei, quindi anche qui si ritornerebbe alla capienza ridotta. Cosa c'è di vero in questo? Perché la notizia è circolata nelle ultime ore, negli ultimi 2 giorni per essere più precisi, però non ha trovato conferme. Diciamo che quando si parla di trasporto aereo ci si muove in un ambito molto internazionale, a differenza del trasporto ferroviario, che è più circoscritta ai confini nazionali. Quindi il Comitato Tecnico Scientifico italiano, prima di prendere una decisione del genere, prima di riprendere questa decisione, di reintrodurre questa misura, dovrebbe un attimino anche confrontarsi con quello che si fa all'estero, con quello anche che indicano le varie autorità di aviazione civile, a partire dall'ICAO, quella dell'Agenzia dell'ONU. La notizia è circolata, sta creando molto subbuglio nelle compagnie aeree, ma anche negli aeroporti. Infatti nelle ultime 48 ore c'è anche, possiamo anche dire, molta attività di lobbying da parte di chi si occupa di trasporto aereo. È una decisione attesa che però viene assolutamente in qualche modo osteggiata dai gestori aeroportuali in Italia, ma anche dalle compagnie aeree, perché l'introduzione di questo distanziamento vorrebbe dire costringere quasi tutte le compagnie aeree che operano in Italia in questo momento a bloccare i voli, sostanzialmente a non operarne neanche uno, o comunque a ridurre al minimo il trasporto aereo in Italia. Con posti, scusa se ti interrompo, con posti chiaramente già prenotati. Con posti già prenotati, e questa è la seconda conseguenza, perché a quel punto centinaia di migliaia di passeggeri italiani o stranieri dovrebbero rifare quella che è stata la trafila tra giugno e luglio di quest'anno, appunto quello per chiedere i rimborsi, i voucher, con tutte anche cosa che richiederà anche l'intervento dell'ente nazionale per l'aviazione civile, che dovrà decidere se a quel punto le compagnie aeree dovranno sempre comunque essere obbligate al rimborso, oppure, vista la situazione straordinaria a spingere le compagnie a dare voucher, questo ovviamente a danno delle tasche dei cittadini che si ritroverebbero con dei buoni e non con i soldi pagati per il biglietto aereo. Ma quanta confusione, ricordiamo anche l'affaire Capelliere, un po' sì, un po' no, tutto questo, come si diceva prima anche in collegamento col professor Ottavio, non fa altro che generare anche poi alla fin fine più timore, perché evidentemente si interpreta questo dietro fronte continuo come un senso di debolezza. Ma anche secondo me con un senso di incertezza su quello che accade a bordo di un aereo, che certo, è leggermente diverso, e quando dico leggermente in realtà è molto diverso rispetto all'area che circola per esempio all'interno di un treno. Stiamo parlando di due mezzi di trasporto che sono regolati in modo completamente diverso, se non altro anche perché si muovono su altezze diverse rispetto al terreno, e hanno tecnologie completamente differenti. In questo modo un passo in avanti, un passo indietro, il divieto delle cappelliere, viene tolto il divieto dell'uso delle cappelliere, ma poi adesso si pensa alla reintroduzione del distanziamento a bordo, non soltanto i passeggeri sono in qualche modo confusi, ma anche le compagnie aeree sul mercato italiano potrebbero dire benissimo, a questo punto meglio aspettare tempi un po' più certi e fino ad allora non vogliamo sull'Italia, con tutte le conseguenze economiche e le ricadute economiche che ci potrebbero essere nel nostro paese. Grazie Leonard Berberi, giornalista del Corriere della Sera. Ci fermiamo un attimo, spazio alla viabilità. Effetto notte estate. E alle 18.47 parliamo di crociere che sono un fenomeno importante sotto il profilo economico a livello mondiale. Rendere le dimensioni del settore, l'ultimo dato disponibile è del 2018 e ci dice che nel mondo il mercato delle crociere ha fatturato 150 miliardi di dollari, equivalenti a 136 miliardi di euro, sostenendo 1.177.000 posti di lavoro e pagando complessivamente 50,2 miliardi di dollari di stipendi. Leonardo Massa, direttore generale di MSC Crociere, buonasera. Buonasera a lei, direttore. Allora, non sono direttore, la ringrazio. Cerchiamo di guardare le navi che prendono largo, e questa è l'immagine che in qualche modo si profilerà a breve dai porti di Genova e Venezia, da quello che posso capire, riguarda sia MSC che riguarda Costa. Sostanzialmente vuol dire che le crociere riprendono dopo il lungo lockdown. Mi conferma che però manca ancora il via libera definitivo, ci occorre un DPCM, il proverbiale DPCM. Le faccio un'estrema sintesi della situazione, abbiamo armato alcune navi per la ripartenza, stati esteri, quello maltese e quello greco ci hanno già dato l'ok, a questo punto aspettiamo esclusivamente l'ok al governo italiano per ripartire. Ecco, per ripartire chiaramente in condizioni di sicurezza, voi avete elaborato, da quello che ho letto, protocolli molto molto rigidi, anche perché purtroppo, come abbiamo raccontato in questi mesi, durante il lockdown le navi sono state un po' dei focolai galleggianti. Anche qui provo a fare un'estrema sintesi, esiste un protocollo europeo che noi abbiamo come MSC Crociere provato a migliorare e a ampliare. Sostanzialmente gli elementi chiave sono: innanzitutto faremo un test a tutti i passeggeri che salgono a bordo, e questa è una novità assoluta non solo nell'industria crocieristica ma nell'industria turistica in generale. Oltre al controllo della temperatura e del questionario, faremo un test di immunofluorescenza a tutti gli ospiti per accedere alle nostre navi. E poi stiamo organizzando escursioni a terra completamente gestite e supervisionate da noi per garantire le popolazioni dove andiamo e gli ospiti della nave, e in più una copertura anti-Covid per gli ospiti che sceglieranno di prenotare le loro vacanze con noi. Ecco, ci sono state prenotazioni in buon numero e le tariffe in qualche modo sono promozionali considerando il momento? Prenotazioni in realtà non ne possiamo ancora prendere semplicemente perché non c'è l'ok del governo a ripartire, però l'industria crocieristica storicamente ha un numero di appassionati, cioè di abitué della crociera, molto elevato, e devo dire che già prima del Covid avevamo un livello di prenotazioni per l'estate 2019 che, bloccata la situazione col governo, tra gli affezionati al prodotto crocieristico e gli ospiti che avevano già prenotato, di poter dare un buon rendimento alle due unità che pensiamo di utilizzare in fase di start-up. Leonardo Massa, direttore generale MSC Crociere, grazie per essere intervenuto a Effetto Notte Estate, buona serata. Buona serata a lei, agli ascoltatori. E allora, a Venezia, la notizia dell'ormai imminente ripresa delle crociere ha scatenato la reazione del comitato No Grandi Navi. Buonasera Marco Baraval, membro appunto di questo comitato. Buonasera a voi. Allora, siete pronti a salire sulle barricate se le navi, diciamo, imbarcheranno passeggeri, se riprenderanno il largo? Leggo che avete annunciato azioni clamorose. Sì, lo siamo. Siamo pronti ad azioni clamorose perché siamo veramente infuriati ed indignati, e con noi indignata gran parte della città, per questa notizia della ripartenza delle crociere e del fatto che tornino a Venezia. Le crociere, le navi da crociera sono state incubatori mobili del Covid, sono stati luoghi in cui la malattia ha colpito più duramente. Si parla per esempio dei posti di lavoro, ma i lavoratori delle crociere sono stati tra quelli meno protetti dal contagio. Si parla ovviamente di danni che le crociere causano a Venezia dal punto di vista ambientale, sociale, di inquinamento, che sono anche precedenti al Covid. Non si capisce perché, in una situazione in cui non si sa ancora se ripartono le scuole, quando le scuole ripartono in sicurezza, ci sia il bisogno di far ripartire le navi da crociera. Crediamo che veramente sia un insulto alla città, e faremo quello che abbiamo annunciato, cioè se il governo darà il via libera alla Costa Deliziosa, che tra l'altro è in questo momento in quarantena nel porto di Civitavecchia perché ci sono stati 3 casi accertati di Covid a bordo, se darà il permesso il governo di arrivare a Venezia, noi la bloccheremo in entrata. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, come? Il 15, cosa farete? Come? Con la nostra immaginazione, con i nostri corpi, mettendoci come sempre la faccia, i nostri barchini, e magari inventandoci qualcosa di nuovo, ecco, come nella tradizione del comitato No Grandi Navi. Che lei non ci vuole anticipare, chiaramente. No, non posso anticipare, ma confermo l'intenzione. Ecco. Devo dire che veramente l'indignazione è una categoria molto di moda sui social network, eccetera. Però devo dire che è davvero il sentimento che percorre la città in questo momento. Tra l'altro, avere il direttore di MSC era interessante perché è girata una notizia che la MSC abbia già rinunciato a venire a Venezia per la mancanza delle condizioni di sicurezza e anche per le proteste, e che questa è la notizia che è circolata a mezzo stampa, che la MSC andrà al porto di Trieste. Ecco, sarebbe stato interessante chiedere conferma di questa notizia, ma non ci basta, cioè anche la Costa Deliziosa e le altre navi in arrivo devono rimanere fuori dalla laguna, come diciamo da 8 anni, e a maggior ragione oggi che siamo nel mezzo di una pandemia. Marco Baraval, membro del comitato No Grandi Navi, grazie e buona serata. A voi buona serata. E allora, dagli aerei alle navi, saliamo sui treni. Salvatore Pellecchia, segretario generale FIT CISL, buonasera. Buonasera a lei, grazie per l'invito e buonasera a chi ci ascolta. Allora, noi l'abbiamo tirata in ballo perché vogliamo conoscere così il sentimento, la difficoltà, presumo, di chi lavora sui treni di fronte a questa grande confusione dei giorni scorsi, appunto, capienza ridotta, sì, no. Ecco, come si vive sui treni ora questa incertezza? Beh, nelle situazioni di incertezza si vive male dappertutto, non solo sui treni. Noi, quando è nata l'emergenza, abbiamo cominciato un lavoro positivo con il Ministero dei Trasporti e con le controparti aziendali, quindi con le aziende e con le associazioni datoriali, e il 20 di marzo di quest'anno siamo riusciti a sottoscrivere un protocollo in cui venivano definite per tutte le modalità di trasporto, e quindi compreso i treni, quali erano gli accorgimenti e le condizioni per far circolare i treni, garantendo le altre modalità di trasporto, garantendo la sicurezza e la salute sia del personale che ecco, dei viaggiatori. È chiaro, vi abbiamo visto all'opera, una situazione particolare, pensiamo poi ai momenti più delicati, all'inizio del lockdown, nel pieno dell'emergenza, però la mia domanda era, alla luce di queste contrastanti notizie che si accavallano, il personale ha avuto problemi di gestione, c'è incertezza da parte dei passeggeri? E poi la seconda domanda che leggo alla prima, questo paradosso, differenza tra treni regionali e treni ad alta velocità. I treni regionali, lo vediamo dalle immagini, dalle foto che arrivano anche in redazione, sono affollati, invece dall'altra parte si viaggia in un'altra maniera, e non necessariamente però il materiale, cioè parlo le carrozze, sono diverse, talvolta si tratta di materiale nuovo in entrambe le situazioni o vecchio in entrambe le situazioni, o no? Sì, allora rispondo alla prima domanda e dire che è affermativa. Sì, sicuramente il personale dei treni sta vivendo delle grandi difficoltà, perché chiaramente il passeggero incontra come prima persona l'addetto del treno e quindi tutte le arrabbiature le scarica su chi ha una divisa addosso. L'incertezza non ha fatto bene, non fa bene la differenza di trattamento che esiste fra i treni regionali e quelli nazionali. Pensi che noi in questo momento abbiamo 5 situazioni diverse in Italia che si differenziano da regione a regione. Abbiamo una serie di regioni in cui va in vendita il 50% dei posti offerti. Un'altra situazione, il 100% dei posti a sedere. Poi c'è una situazione in cui il 100% dei posti a sedere può essere venduto, ma quello in piedi deve arrivare al 25%. Ci sono regioni che prevedono la possibilità di vendere il 100% dei posti a sedere a condizione che per i posti, cioè per le persone che sono in piedi, si garantisca il distanziamento di 1 metro. E poi la quinta situazione è quella che si può vendere il 100% ai posti sia a sedere che in piedi. Quindi una situazione di grande confusione e chiaramente crea disagio a chi deve prendere il treno, che evidentemente a seconda della regione e della tipologia di treno si deve regolare in maniera diversa, ma anche al personale dei treni che si trovano nelle condizioni di gestire una criticità nella criticità. E quindi noi riteniamo che bisogna riprendere con il Ministero dei Trasporti questo tema insieme alle associazioni datoriali e definire una regola uguale per tutti. Certamente, è inevitabile. Grazie Salvatore Pellecchia, segretario generale FIT CISL. Non abbiamo più tempo, ora la linea passa a Vincenzo Miglietta per il GR del 19. La luce che sanifica l'aria, a cura di Viva Group. La tecnologia, la ricerca e l'esperienza possono aiutarci a combattere l'inquinamento e l'insalubrità dell'aria negli ambienti chiusi. Viva Active di Viva Group, attraverso l'utilizzo della luce visibile e dell'interazione con i nanomateriali, ci mette al riparo da un grave rischio per la salute negli ambienti indoor. Vai su radio24.it, entra in La luce che sanifica l'aria e scopri tutti gli approfondimenti. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Effetto notte estate. 19:12, 22 secondi, ancora buonasera ad Andrea Ferro, buonasera da Valeria Bernardi, in redazione in assistenza ci sono Valentina Ternullo, Laura Vanossi, Alessandro Schirano, Valeria Bernardi era in regia. E a quest'ora, mentre molti di voi ci ascolteranno, mentre ritornano dalle spiagge, noi sulle spiagge in qualche modo ci andiamo, chiaramente idealmente, perché sulle spiagge ci porta il rapporto di Legambiente, appunto rapporto spiagge. Da questa analisi emerge che in questa estate le spiagge libere sono sempre meno, ancora troppe quelle non balneabili come quelle a rischio erosione. Entrando più nello specifico, le concessioni balneari interessano oltre il 50% dei litorali e in 260 km di tratti sabbiosi è vietata la balneazione per inquinamento. Dal 1970 poi sono triplicate le spiagge soggette a erosione. Sebastiano Venneri, responsabile turismo di Lega Ambiente, buonasera. Buonasera, bentrovati. Allora, questo è un bollettino che di anno in anno peggiora sempre. Ho guardato un po' le edizioni precedenti. Ahimè sì, quest'anno peraltro le spiagge libere erano un'esigenza ancora più pressante rispetto agli anni passati, eppure stanno diminuendo costantemente le spiagge dove è possibile ovviamente godere del sole e del mare gratuitamente, contemporaneamente stanno aumentando quelle in concessione, ma la cosa più inquietante è che stanno diminuendo le spiagge, cioè stanno paradossalmente sparendo completamente proprio l'oggetto del tema, cioè le spiagge. L'erosione ha portato via in 50 anni 1800 circa chilometri di spiagge, è un numero impressionante. E le cause? Beh, le cause sono molteplici. Ovviamente c'è la mano dell'uomo e quindi la irrigimentazione del litorale, quindi la costruzione di infrastrutture spesso abusive o anche di porti turistici e quant'altro, eccetera, e il tutto viene accentuato dai fenomeni meteoclimatici estremi di questi ultimi anni. Quindi le grandi mareggiate, bombe d'acqua e quant'altro non fanno che accentuare questo fenomeno. Noi chiediamo che si torni un po' indietro, cioè che si tolga qualcosa, perché molto spesso si risponde al fenomeno dell'erosione costruendo barriere soffolte, costruendo pennelli, buttando massi in mare che dovrebbero proteggere dalla forza dell'erosione, dalla forza del mare. Ecco, in questo caso noi chiediamo invece di togliere qualcosa, di rinaturalizzare questo tratto di costa e restituire quindi il tratto di litorale a una sorta di naturalità che ricostruisca quell'equilibrio che è stato messo in crisi dalle infrastrutture che sono state realizzate. Insomma, fra qualche anno noi non avremo più di che discutere, insomma. Speriamo di no, però chiaramente bisogna fare in fretta. Il rapporto spiagge che Lega Ambiente appunto oggi ha presentato ha elaborato anche una classifica dei primi 10 comuni costieri con la maggiore occupazione di spiagge in concessione. In questa classifica figurano Alassio, Jesolo, Forte dei Marmi, Rimini, Lido di Ostia, San Benedetto del Tronto, Alba Adriatica, Pozzuoli, Giardini, Naxos e Mondello. Bruno Murzi è il sindaco di Forte dei Marmi, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti voi. Le fa piacere essere in questa classifica? No, non mi fa piacere, ma è una classifica un po' particolare. Noi siamo lì da 100 anni e il nostro comune è in un litorale di circa 270 km della costa toscana, a 4,7 km di litorale. Abbiamo 100 bagni che vivono, insomma, diciamo ormai da più di 100 anni probabilmente, e chiaramente è una passione della costa particolarmente strutturata da un punto di vista turistico. Abbiamo una spiaggia libera che continuiamo a mantenere rigorosamente fruibile, che sono circa 500 metri, e però ci troviamo in una spiaggia che è la spiaggia della Versilia, che si estende, diciamo, come spiaggia, quindi ben più ampia forse della Versilia stessa, da Marina di Carrara fino all'Arno, e che sono circa 40 chilometri, di questa circa la metà è libera. Quindi forse Forte dei Marmi non di certo, ma nella Versilia, nella zona costiera nord della Toscana, ci sono amplissimi tratti di spiaggia libera. Veneri, avete indagato anche in qualche modo le abitudini in questa estate così particolare? Da quello che leggo è aumentata la permanenza media delle famiglie in spiaggia quest'estate? Sì, evidentemente c'era un grande bisogno di recupero, diciamo, dopo la situazione del lockdown. Purtroppo sono aumentati anche un po' i canoni, gli affitti per le sdraie e per gli ombrelloni, anche non di moltissimo, e comunque in situazioni abbastanza differenziate in giro per il paese. Noi chiediamo in questo caso che vengano omogeneizzate anche le normative, perché c'è una grande differenza tra quello che accade in giro per il paese, no? Ci sono situazioni molto differenziate, regioni che hanno normato per esempio la percentuale di spiaggia che deve rimanere libera, noi chiediamo che ci sia una percentuale di spiaggia libera. Puglia e Sardegna per esempio hanno fissato in almeno il 60% di litorale libero, e poi invece ci sono altre regioni, tra queste anche la Toscana ahimè, che non hanno un limite di spiaggia libera, insieme alla Sicilia, Friuli Venezia Giulia, al Veneto e così via. Quindi insomma ci sono anche lì situazioni molto differenziate che dal nostro punto di vista dovrebbero maggiormente tutelare il fatto di poter usare della spiaggia liberamente. È con noi Antonio Capacchione, che è il presidente del sindacato italiano balneari, aderente a FIPE Confcommercio. Buonasera. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Ha sentito, siete un po' più cari dell'anno scorso secondo Legambiente? Ma anche Legambiente appunto limita gli aumenti a percentuali molto contenute, e naturalmente sono dettate dagli aumenti dei costi per la sanificazione, evidente a tutti. Quindi non credo che le spiagge italiane siano care. Abbiamo un'offerta molto differenziata nel paese, per cui ci sono degli stabilimenti balneari che hanno delle tariffe elevate, altre che offrono servizi di spiaggia, parlo di un ombrellone con due lettini persino a 5 euro in alcuni casi. Dove accade? Ma accade per esempio in Puglia, in molte realtà della Puglia le tariffe non superano i 15-20 euro per l'intera giornata, quindi abbiamo un'offerta molto differenziata. Dipende anche dal numero degli stabilimenti balneari: dove ci sono più stabilimenti balneari le tariffe sono anche più calmierate, perché naturalmente il rapporto della la tariffa non è determinata in maniera arbitraria, è dettata anche dalla domanda e dall'offerta. Dove c'è una maggiore offerta di servizi e una minore domanda, naturalmente le tariffe sono più ridotte. Ma credo che il nocciolo del rapporto di Legambiente non sia tanto dello squilibrio. Tra l'altro Legambiente appunto certifica che grosso modo c'è un equilibrio tra spiagge libere e spiagge attrezzate, stiamo parlando del 50%. Il problema vero che è stato posto da Legambiente e anche dall'intervento di Sebastiano Veneri è il problema della quantità di spiaggia che sta scomparendo, e questo è il nocciolo della preoccupazione di tutti, sia delle associazioni ambientaliste sia soprattutto degli operatori balneari. Qui sta venendo meno la spiaggia, sia per i cambiamenti climatici sia anche per errate costruzioni che sono state realizzate nel passato. Parlo di porti, parlo anche di barriere che sono state realizzate in malo modo. Quindi c'è la necessità di un'opera straordinaria da parte del nostro paese, con dei progetti di qualità. Noi abbiamo la suddivisione dell'intero territorio costiero nazionale in 54 unità fisiografiche. Ecco, è necessario che per ogni unità fisiografica ci sia un responsabile per l'adozione di progetti di qualità con procedure semplificate. Noi abbiamo un disegno di legge che è stato presentato dal ministro Costa con grande enfasi oltre un anno fa. Questo disegno di legge per semplificare le procedure di intervento già c'è nel Parlamento, non è stato neanche iniziata l'audizione su questo disegno di legge. Sarebbe invece opportuno che questo disegno di legge sia trasformato in decreto legge, stante appunto l'urgenza di tutelare e di proteggere la costa italiana. È chiaramente un patrimonio di tutti, un patrimonio fondamentale chiaramente per il nostro turismo. Bruno Murzi, sindaco di Forte dei Marmi, come va il distanziamento in spiaggia? Inizialmente a maggio avrebbero dovuto esserci vigilantes e via dicendo, poi non dico di Forte dei Marmi, ma in generale arrivano foto, immagini, video, che sostanzialmente è come l'anno scorso. Per noi il distanziamento di spiaggia è facilmente ottenibile, abbiamo una spiaggia profonda circa 100 metri e per ogni posto ombra gli spazi attorno sono circa 35 e 40 metri, per cui chiaramente abbiamo spazi enormi. In più il comune insieme all'associazione balneare hanno preso degli steward che stanno sulla spiaggia e fanno presenti tutte quelle che sono le norme Covid. Direi che è abbastanza, anzi molto controllato. Certo è difficile un controllo capillare perché tutto quanto, che ne so, proprio le spiagge libere dove il controllo diventa più difficile, dovremmo presidiarle e chiaramente gli uomini della polizia municipale, i fondi a volte non sono sufficienti. Se posso spendere una sola parola, certo, sull'erosione, mi certo, consenta. Certo. Noi abbiamo da circa 10 anni, stiamo facendo ogni anno un convegno nel mese di ottobre proprio sui problemi dell'erosione. Da noi è iniziato un ripascimento della zona sotto il porto di Carrara, con il quale c'è un legame netto tra la costruzione del porto e l'inizio dell'erosione nella zona di Carrara e Massa. C'è un progetto di ripascimento della spiaggia, direi una manutenzione della spiaggia. La spiaggia, la sabbia viene presa nei punti dove si accumula e portata nei punti dove viene erosa. Io sono assolutamente d'accordo con i rappresentanti dei balneari, dobbiamo smettere, anche quelli di Legambiente, dobbiamo smettere di mettere roba in mare, pennelli, ma soprattutto stare molto attenti alla costruzione di nuove infrastrutture. Dobbiamo legare turismo e vecchie infrastrutture o nuove infrastrutture ad una vera e propria programmazione dei possibili effetti erosivi, perché non è facile e soprattutto basta poco per rovinare quello che Madre Natura ha creato in moltissimi anni. E poi chiaramente all'interno di un quadro generale nazionale, perché poi appunto il problema è che uno agisce su una certa parte, poi inevitabilmente il mare si orienta per le correnti da un'altra parte, ed ecco che se qualcuno è protetto, poi qualcun altro invece deve subire l'aggressione appunto del mare, quindi va in scena l'erosione. Venneri, le notizie positive vengono, leggo, dalla crescita di stabilimenti che puntano su un'offerta green. Sì, questa è già una tendenza che noi abbiamo cominciato a registrare da almeno un paio d'anni a questa parte. C'è un racconto all'interno del dossier di esperienze di qualità negli stabilimenti balneari sempre più presenti. Le esperienze nel Veneto, da questo punto di vista, gli stabilimenti lì sono veramente interessanti sul lavoro che hanno fatto, per esempio, per vietare il fumo addirittura, oltre che per bandire la plastica, che è l'altro grande problema insieme a quello dell'erosione costiera che dovrà affrontare chi vive e lavora nel mare, plastiche e microplastiche. E poi tutto un grande lavoro sull'utilizzo di prodotti a chilometro zero, comunque bio, il riutilizzo del legname depositato sulle spiagge, o addirittura come fanno appunto anche in questo caso nel Veneto, dove hanno riutilizzato i legni degli schianti della tempesta Vaia di 2 anni fa. Anche la Toscana da questo punto di vista ha fatto un grande lavoro col progetto Costa Toscana Sostenibile, con l'idea appunto di fare tutta la costa toscana una destinazione sostenibile, che abbia fatto proprio tutti quei temi della sostenibilità ambientale. Anche la Puglia ha lavorato molto da questo punto di vista, quindi ci sono tantissime situazioni in cui il mondo produttivo che vive e lavora del mare ha capito che fare della risorsa ambiente un punto nodale, cruciale della propria attività economica ripaga in termini di competitività e anche in termini di accoglienza da parte del pubblico. Capacchione, presidente del sindacato italiano Balneari, ho letto un'agenzia qualche giorno fa, lamentava un calo delle presenze del 70% nei giorni feriali. Come stanno andando le cose questa settimana? Purtroppo è un fenomeno che si è verificato dall'inizio della stagione e perdura. Abbiamo una concentrazione delle presenze nel fine settimana, quindi le domeniche. Il sabato un po' di meno, però ecco, durante la settimana c'è un calo di presenze. Abbiamo una domanda quasi esclusivamente interna, purtroppo ci sono pochissimi stranieri, E questo è un dato di fatto, tra l'altro, che non dovrebbe neanche sorprendere più di tanto, perché siamo in una situazione, diciamo, un po' complicata. Però ecco, io vorrei anche evidenziare gli aspetti positivi. Noi costituiamo l'Italia un quarto dei siti di balneazione dell'intero continente europeo, quindi su 22 siti di balneazione oltre 5.000 sono i siti di balneazione italiani. La qualità delle acque di balneazione è eccellente. Noi abbiamo il 95% delle acque di balneazione che sono di qualità, 90% eccellente, il 5% buone. Quindi abbiamo anche delle regioni come la Puglia e come la Sardegna dove arriviamo quasi al 99,7% di acqua di balneazione eccellente. Quindi ci sono degli aspetti estremamente positivi. Abbiamo una balneazione attrezzata di qualità, che soprattutto in un momento come questo in cui bisogna unire la socializzazione con la sicurezza è un elemento di vantaggio competitivo formidabile per il sistema paese. Quindi abbiamo comunque le risorse per poter ecco, ritornare a crescere così come siamo cresciuti negli ultimi anni. Certo. Purtroppo è un momento di difficoltà. Beh, chiaramente, chiaramente. La interrompo. Una battuta da Murzi, sindaco di Forte dei Marmi. Come vanno le cose in Versilia? Possiamo fare un primo bilancio? Siamo quasi a metà estate. È una stagione al di sopra di ogni aspettativa, nel senso che nel mese di aprile-maggio avevamo molta paura, diciamo così. Invece le cose non stanno andando male. Ci sono molti più italiani rispetto a quello che c'erano gli anni scorsi, ci mancano gli stranieri. Però, per esempio, venerdì, sabato e domenica appunto facciamo il pieno e comunque la gente c'è. C'è una tendenza ad affittare abitazioni, soprattutto con giardino, e quindi la gente, forse chi ha sofferto un po' di più sono gli alberghi, però le spiagge sono affollate, quindi in questo momento sta andando meglio di ogni previsione. Bene, una nota confortante, spesso in questa trasmissione inevitabilmente riportiamo dati con il segno negativo che fotografano la situazione, in particolare da determinati comparti economici. Allora io ringrazio Sebastiano Venneri, responsabile di turismo di Lega Ambiente, Bruno Murzi, sindaco di Forte dei Marmi, e Antonio Capacchione, presidente del sindacato italiano balneari aderenti alla FIPE Confcommercio. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Effetto notte estate. Effetto notte estate, 19:34 e 42 secondi. Vi ricordo i nostri numeri 800 24 0024 per SMS e WhatsApp, 349 238 66 66 66. E allora andiamo a parlare di questioni condominiali, ma in realtà è una questione tutt'altro che noiosa, è una grossa occasione, così è stata presentata dal governo. Parliamo chiaramente dell'ecobonus e vi invito quindi a partecipare, intervenire durante questa trasmissione, anche perché avremo qualche esperto e comunque faremo il punto su come stanno le cose, visto che è una questione abbastanza complicata. In quanti condomini in queste settimane, sulle scale, nei passa a parola, nelle comunicazioni magari con l'amministratore, si parla, si è parlato, si parlerà appunto di ecobonus o super bonus. Oggi c'è stata una videoconferenza organizzata da Federesco, Federazione Nazionale delle Energy Service Company, e siamo collegati con il presidente, che è Claudio Ferrari. Buonasera. Buonasera a voi. E buonasera ad Armando Zambrano, che è presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri. Buonasera Zambrano. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, Ferrari, Federesco, chi siete e cosa fate? Ma dunque, le ESCO sono società, acronimo di società di servizi energetici, sono nate circa negli anni 70 negli Stati Uniti e hanno come scopo quello di occuparsi di efficienza energetica. L'efficienza energetica è sempre stata di moda, ma adesso con il decreto Eco e Sisma Bonus diventa ancora più di moda, perché ridurre i consumi energetici significa salvaguardare l'ambiente e significa tutta una serie di attività che riguardano la sostenibilità ambientale, la riduzione delle emissioni inquinanti, una qualità migliore della vita, che soprattutto in questo periodo di grandi cambiamenti climatici ci dovrebbe far riflettere. Quindi l'ESCO sono quelle specializzate nel portare avanti i progetti di efficienza energetica. Ecco, voi oggi avete incontrato in videoconferenza il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fraccaro. Fraccaro, certo. È emersa qualche novità, mi pare, sui termini di prolungamento dell'ecobonus, che in questo momento... Assolutamente sì, è emersa questa ipotesi che speriamo si realizzi, di utilizzare i soldi del Recovery Fund, i fondi del Recovery Fund, per prolungare l'Eco Bonus e il Sisma Bonus al 2026, perché attualmente la legge prevede che l'Eco Bonus e il Sisma Bonus al 110% veda il suo naturale esaurimento al 31 dicembre 2021. Quindi questo è, mentre evidentemente potendo utilizzare le risorse di Recovery Fund, questa data viene spostata di 6 anni e quindi chiaramente creerebbe un ulteriore spazio di lavoro per le imprese edili, per gli impiantisti, insomma per tutto il mondo collegato all'edilizia, che mi sembra che sia assolutamente una ipotesi augurabile e auspicabile, come appunto ha accennato, anzi accennato, ha confermato il sottosegretario Fraccaro. Allora, innanzitutto ricordiamo, anche se se ne è parlato molto, cos'è l'ecobonus. È una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettua interventi, certo, di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico. La detrazione fiscale, certo, del 110% vale per i lavori effettuati dal 1 luglio 2020, abbiamo sentito, poi ci sarà un prolungamento. Messa così è un affare, ma Armando Zambrano, presidente dell'Ordine Nazionale degli Ingegneri, ha espresso a più riprese un certo scetticismo, cioè bella la teoria, poi la pratica, Zambrano? Sì, la verità è che è un provvedimento che sicuramente è fondamentale, anche perché guarda al futuro, mette in condizioni di sicurezza i fabbricati per quanto riguarda poi l'applicazione del Sisma Bonus, ma consente anche il risparmio energetico, quindi l'utilizzo di fondi alternativi, quindi è tutto bello, tutto positivo, lo Stato ci mette soldi, ne recupera anche tanti altri, se poi diventa strutturale consente anche di avere i tempi per poterli utilizzare. Ora la questione è che siamo in Italia, siamo in un paese complicato dove le normative sono complesse, difficili, dove la burocrazia è invasiva e quindi è veramente complicato attuare diciamo tutte le procedure, sia perché ci sono tanti soggetti che intervengono su questa materia, nel caso di ecobonus c'è l'Agenzia delle Entrate con i suoi provvedimenti, c'è il Ministero dello Sviluppo Economico, ma c'è anche il Ministero dei Trasporti, c'è l'Enea, insomma tutti i soggetti che danno istruzioni. Proprio per questo proponevo anche oggi in questo convegno a cui ho partecipato insieme al Presidente Ferrari, che saluto, di costituire un osservatorio tra pubbliche amministrazioni che hanno il compito di avviare e di definire le regole, ma anche gli stakeholder e gli operatori del settore per dare norme più semplici e più applicabili. Poi c'è il problema della burocrazia, sono interventi sui fabbricati, in edilizia, sugli impianti, c'è bisogno di avere autorizzazioni, ci sono poi le sovrintendenze. Devo dire che col decreto semplificazioni approvato qualche giorno fa e che in corso di conversione in legge ci sono delle norme che semplificano le procedure per ottenere i pareri in chiave appunto di interventi edilizi. Noi abbiamo anche proposto come Consiglio Nazionale Ingegneri una serie di ulteriori semplificazioni sull'autorizzazione sismica, ma anche sulla possibilità di intervenire in tanti fabbricati che hanno quei piccoli abusi che per oggi non ti consentono di poter dichiarare la conformità urbanistica edilizia, e ce ne sono milioni in questo paese. Sì, insomma, un quadro complesso, composito. Il diavolo si nasconde nei dettagli, e i dettagli sono poi di tutte queste piccole norme, questi piccoli centri di potere nei comuni, nelle province, nelle sovrintendenze, eccetera, che poi si creano problemi. La risposta è affidate ai professionisti la responsabilità di certificare questi interventi, come si fa con le SCIA, con le DIA, con questi provvedimenti edilizi, e andiamo avanti. Anche l'ecobonus e il sismabonus affidano ai professionisti la responsabilità di certificare le spese. e credo che oggi le categorie professionali siano in grado di poter svolgere egregiamente questo compito. Ferrari, quindi un quadro molto composito, molto difficile, anche lei teme che in qualche modo poi però tra il dire e il fare? Ma chiaramente, come accennava Armando Zambrano, il tema non è così lineare, perché siamo partiti con delle migliori intenzioni, perché in effetti questa legge, questo decreto legge, che poi alla fine si tratta di due articoli di un provvedimento di 250 articoli, apre il mercato dell'edilizia in maniera, penso, unica nella storia, perché stimati sono circa 20 miliardi all'anno di lavori, quindi insomma è veramente una forte iniezione di credibilità. Certo, ci sono, come accennava Armando Zambrano, tutta una serie di problemi che andranno risolti, perché qui se ci sono tutte queste lacci e lacciuoli di antica memoria, è chiaro che questo percorso avrà dei rallentamenti. Però, come accennava assolutamente in maniera estremamente chiara il sottosegretario Fraccaro, se ci si muove bisogna fare squadra in modo che tutti portino il loro contributo a questo grande percorso di sviluppo, da iniziare dalle banche. Ecco, volevo arrivare proprio qua. Ecco, le banche, so che ci sono state delle risposte al momento un po' interlocutorie a chi si è rivolto in banca per chiedere appunto come fare per la cessione del credito. Sì, perché manca ancora un po' di chiarezza da parte delle normative, questo è il punto. Per esempio, la cessione del credito, benissimo, vengono concessi due stati d'avanzamento del 30% l'uno. Ho capito, ma se ci vogliono asseverazioni prima, asseverazioni dopo, asseverazioni qui, praticamente si finisce i lavori e poi dopo il credito d'imposta quando è che può essere utilizzato. Insomma, ci sono tutta una serie di aspetti pratici che esulano evidentemente dall'aspetto tipicamente, chiamiamolo politico, perché chiaramente questa è una scelta politica, che hanno bisogno di essere raffinati e messi a regime. Le banche in teoria dovrebbero creare dei vantaggi, perché attualmente chi è che può scontare il credito d'imposta sono solo le multi-utility, che normalmente questo sconto del credito d'imposta viene fatto pagare all'impresa o al condominio che ha fatto i lavori tra il 20 e il 30%, a secondo se sono attività, se sono lavori in 5 anni, se sono lavori se sono crediti di imposta di 5 anni, se sono crediti di imposta di 10. È chiaro che entrando in questo meccanismo le banche, almeno dal punto di vista finanziario, i costi dell'attualizzazione di questi crediti di imposta dovrebbero ridursi. Però per il momento sono tutte ipotesi e aspettano tutte le banche per primo di avere un quadro preciso dall'Agenzia delle Entrate di come recuperare queste cifre. Vi interrompo, sono costretto anche a chiudere questo capitolo, questa pagina di Effetto Notte Estate. Io ringrazio quindi Claudio Ferrari, presidente di Federesco, e Armando Zambrano, che è il presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri, perché ci sono gli aggiornamenti da Beirut. Avete sentito nel giornale radio delle 19 che si dava conto appunto di due esplosioni nella zona del porto. Secondo l'ultimo bilancio ci sarebbero almeno 10 morti e centinaia di feriti. Tra questi ci sono anche due militari italiani. Vi leggo l'ultima notizia che è giunta appunto in redazione. Due militari italiani sono rimasti feriti in modo non grave in seguito alle esplosioni avvenute a Beirut, mentre altri sono sotto osservazione perché in stato di shock. La notizia è stata appresa dall'ANSA da fonti qualificate, secondo cui i militari fanno parte di una unità del contingente italiano in Libano. E poi, sempre da Beirut, arriva la notizia che è stato convocato il Consiglio Superiore della Difesa, una riunione urgente in seguito alle esplosioni delle scorse ore al porto di Beirut. Per quanto riguarda le cronache che arrivano, parlano di molte persone che a piedi camminano per le strade dirette agli ospedali della città città, davanti al centro medico di Clemenceau, decine di feriti, compresi molti bambini a volto coperto di sangue, aspettano di essere curati. Quasi tutte le vetrine dei quartieri di Amra, Badaro, Azmieh, nella parte orientale di Beirut, sono state distrutte. Questa è la notizia che è arrivata nel tardo pomeriggio in redazione, l'abbiamo anticipata nel GR delle 19 e ora si susseguono i flash di agenzia che danno conto dell'aggravarsi della situazione. Ripeto, sarebbero almeno 10 i morti, centinaia i feriti e tra i feriti ci sono anche due militari italiani, come vi leggevo poco fa nell'agenzia. Non verserebbero in gravi condizioni, altri sono sotto shock. Chiaramente torneremo ad aggiornarvi sulla base delle agenzie che arrivano in redazione su quello che è accaduto e sta accadendo a Beirut. Proseguiamo, ripeto, poi con un occhio rivolto costantemente alle agenzie. Riprendiamo in qualche modo il nostro programma di viaggio e torniamo a Genova dove ieri vi abbiamo raccontato appunto l'inaugurazione del ponte Genova San Giorgio con il capo dello Stato. Ricorderete, chi ci ha ascoltato, la lunga diretta con i discorsi, con il racconto di questa emozione contrastante tra appunto il momento della celebrazione di un'impresa indubbiamente storica e dall'altra però il senso doloroso della tragedia con quelle 43 vittime, il cui ricordo pesava, come è stato giustamente sottolineato dal Presidente della Repubblica, che aveva incontrato una delegazione dei familiari delle vittime prima della cerimonia in prefettura. E allora andiamo a Genova, come dicevo, è stato aperto al traffico, anche questa è un'agenzia che arriva in queste ore, è stato aperto al traffico il ponte Genova-San Giorgio, è stato aperto al traffico, diciamo così, in anticipo di un giorno rispetto al programma iniziale. Si era parlato infatti dell'apertura fissata a mercoledì e sul ponte Genova San Giorgio ora quindi tornano a circolare le auto, ma tornano a circolare anche tanti tir e noi soffermiamo l'attenzione appunto sull'aspetto della logistica, su quello che ha significato per Genova, per il porto di Genova non avere il ponte San Giorgio, o meglio era il ponte Morandi, crollato appunto il 14 agosto 2018. Siamo in linea con Paolo Emilio Signorini, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Allora, io rileggendo qualche statistica non aggiornatissima, si parlava di 12.000 tir circa al giorno in transito sul ponte Morandi, nel tratto tra il casello di Genova Ovest e Cornigliano sulla 10. Senza il ponte cosa è successo nel porto di Genova? Guardi, è abbastanza semplice. Genova è una città che va immaginata chiusa tra mare e terra da est a ovest. Il ponte Morandi era l'unica arteria autostradale che andava appunto da est a ovest nella città. Tutti i tir, come ha ricordato lei prima, praticamente usavano questo scalo. Ricordiamoci che dal porto di Genova oltre l'85% della merce va via camion. Quando è caduto il ponte, la città di Genova, il porto, tutti noi abbiamo dovuto rapidamente aprire una via di emergenza, la famosa via della Superba che è dentro il demanio portuale, e abbiamo poi nel giro di qualche mese aperto un'altra via parallela che è la cosiddetta via Guido Rossa con tre corsie per senso di marcia. Con la riapertura oggi del ponte Morandi, Genova si trova ad avere, diciamo, due alternative: il ponte più la cosiddetta via Guido Rossa con tre corsie per senso di marcia, più una, chiamiamola, corsia di emergenza che è la via della Superba. Quindi ci troviamo in una situazione notevolmente migliore a quella di quel tragico 14 agosto. Ecco, una rettifica rispetto a quanto detto prima: il ponte avrebbe dovuto riaprire intorno alle 18.30-19, poi però si è trattato di rifare un piccolo tratto di asfalto e quindi l'apertura del ponte è stata ritardata, ma viene confermata per questa sera, lo si apprende da fonti di ASPI che ha preso incarico alle 18 dal commissario Bucci, il commissario straordinario per la ricostruzione Bucci, appunto il viadotto sopra il Polcevera. Signorini, la situazione sulle autostrade in Liguria com'è in questi ultimi giorni per la questione del rifacimento, per la messa in sicurezza delle gallerie? La viabilità è andata in tilt e addirittura si diceva le conseguenze di quello che è accaduto in queste settimane, in questi due mesi, sono state ancora più pesanti rispetto appunto al disastro del Morandi. Guardi, hai ragione, diciamo che dovendo fare un ordine per ordine di gravità quello che è successo negli ultimi due anni in Liguria, sicuramente sul traffico è inciso più di tutto il Covid, poi le emergenze infrastrutturali di queste settimane e certamente poi il Morandi come disastro singolo puntuale. Per quanto riguarda l'emergenza delle autostrade, noi abbiamo avuto un picco di gravità assoluta quando abbiamo avuto cantieri che hanno messo a una sola corsia per senso di marcia oltre il 50% della rete autostradale del nodo genovese. Lei si immagini a Milano mettere una corsia sola, il 50% di tutte le tangenziali sarebbe un collasso. Questo è quello che è successo, unitamente al fatto che, come vi ricordate, c'erano cantieri notturni che non si sapeva se sarebbero stati aperti la mattina dopo, dipendeva dall'esito dell'ispezione. Allora, l'esito, questo diciamo effetto sorpresa alla mattina è andato via da una settimana, quindi non c'è più questa possibilità che la mattina non riaprano, e da un paio di giorni pressoché tutte le autostrade hanno di nuovo due corsie per senso di marcia. Resta una situazione molto critica per il numero di cantieri che possono comunque dare adito a imprevisti, a sorprese, soprattutto nel mese peggiore che è quello di agosto. Quindi una segnale di convalescenza, mettiamola così. Paola Noli, CNA Fitta, buonasera. Buonasera. Allora, per l'autotrasporto cosa ha significato viaggiare senza il Ponte Morandi? Da dire che il decreto Genova ha previsto una serie di indennizi, no? Sì, certo. Allora, diciamo che i nostri problemi, soprattutto a livello di autotrasporto, ma poi in maniera più diffusa sulle famose piccolissime imprese che tengono vivo il mondo economico della nostra regione, è stato pesante sicuramente. Come diceva prima il dottor Signorini, devo dire che ora, facendo un'enorme parentesi sul discorso vittime, che sto in questo momento, mi prendo la responsabilità di non metterle sulla bilancia, no? Quindi parliamo esclusivamente dal punto di vista economico. Il ponte ha creato disagi, danni, non si può dire circoscritti, perché non sarebbe corretto, perché gli autotrasportatori che percorrevano quel ponte e continueranno a percorrerlo ovviamente vengono da diverse zone e non sono per forza sul territorio ligure, ma decisamente il danno del ponte è stato principalmente concentrato attorno alla zona geografica che da esso era occupata e sulla regione Liguria. Adesso, con la situazione generale che c'è su autostrade, devo dire la verità, i disagi soprattutto per l'autotrasporto sono enormi, si propagano anche alle altre aziende per forza di cose, perché c'è chi aspetta merce, chi la deve consegnare e quindi non riesce di fatto a lavorare se non con costi decisamente più elevati. Dal mio punto di vista è molto meno circoscrivibile ed è più diffuso, cioè interessa forse più categorie, tant'è vero che auspichiamo, ci è stato promesso che a partire dal 2 di settembre si inizierà a ragionare sia con il Ministero che con autostrade su eventuali modalità da seguire per vedere di riconoscere un ristoro a chi ha avuto i danni maggiori. Immaginiamo che faccia poi seguito un tavolo tecnico permanente, perché temiamo, ora sono terminate le ispezioni, ma gli interventi a seguito delle ispezioni temiamo dureranno molti anni, e quindi la programmazione dovrà essere estremamente puntuale per limitare le ennesime ripercussioni sul tessuto economico. Ecco, signorini, le conseguenze sui traffici per il porto di Genova. Tre settimane fa circa Costco, che è un colosso dello shipping cinese, aveva detto sostanzialmente ai clienti: se potete evitate Genova. Poi ci sono state delle conseguenze o alla fine, tra mille difficoltà, i traffici in qualche modo reggono? Per dare un ordine di grandezza, il Morandi ci aveva portato nel 2019 a un meno 5%. Quattro mesi di Covid più emergenza infrastrutturale, meno 20%. Aprile, maggio, giugno, meno 30%. Luglio sta andando leggermente meglio, ma siamo sempre tra il 20 e il 30%. Quindi noi quest'anno parliamo di qualcosa che vale 5 volte, 6 volte la vicenda del Morandi. Da questo punto di vista, questo anno si preannuncia duro, perché verosimilmente non si esaurirà nei prossimi mesi, e dovremo sicuramente fare i conti ancora per un bel po' con questa situazione di grande difficoltà. Paolo Emilio Signorini, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, grazie per essere intervenuto a Effetto Notte Estate, buonasera. Grazie a voi, buonasera. Paola Noli, presidente CNA Genova, buonasera, grazie. Buonasera, grazie. E torniamo con le notizie di agenzia che arrivano da Beirut. Le esplosioni di oggi potrebbero essere dovute a materiali esplosivi confiscati, lo hanno riferito responsabili della sicurezza libanese, quindi si tratterebbe, se è confermato, di cause accidentali. E ora c'è un seguito sul ferimento dei due militari italiani. A quanto si apprende, tutti i militari italiani coinvolti, feriti e non, nelle esplosioni appartengono ad un contingente che ha sede a Nakura, che ha il principale scopo di favorire la cooperazione internazionale e l'integrazione sociale tra i militari italiani e la popolazione libanese. Il percorso è focalizzato, sull'apprendimento delle principali nozioni della lingua italiana. Queste sono le ultime notizie che appunto arrivano da Beirut. Un altro flash di agenzia: nel porto di Beirut, dove sono avvenute le potenti esplosioni che hanno devastato la capitale libanese, sono ancorate anche unità navali dell'UNIFIL, la forza dell'ONU di interposizione al confine tra il Libano e Israele. A proposito di Israele, fonti appunto di Tel Aviv dicono che Israele non è coinvolta nell'esplosione di Beirut. Ci fermiamo un attimo, poi torniamo di nuovo insieme con Effetto Notte Estate. Effetto Notte Estate. E allora il punto delle notizie alle 20, come vi teniamo aggiornati ormai da qualche decina di minuti, ci sono gli aggiornamenti da Beirut. Sarebbero almeno 10 i morti e centinaia i feriti nell'esplosione. Si tratterebbe in realtà di due esplosioni avvenute appunto nella capitale libanese questo pomeriggio. Sono feriti anche due militari italiani, le loro condizioni non sono gravi. Chiaramente di qui alla fine di Effetto Notte Estate continueremo ad aggiornarvi con le notizie che giungono appunto dalla capitale libanese. E come dicevamo nel flash prima dell'interruzione, le esplosioni potrebbero essere collegate a materiali esplosivi confiscati, quindi potrebbe trattarsi di una causa accidentale. Le altre notizie: si allarga l'inchiesta della Procura di Napoli sulla realizzazione degli ospedali anti-Covid in Campania, un appalto da 18 milioni di euro, 4 sarebbero le persone indagate, anche se non escluso che sul registro vi siano pure altri nomi. Le accuse contestate a vario titolo sono turbativa d'asta e frode in pubbliche forniture. Il NAS di Milano, al termine di accertamenti in 17 RSA e un ospedale della provincia di Como, ha sequestrato 363 cartelle cliniche di pazienti deceduti nei mesi della pandemia, chiedendo riscontro dei protocolli di prevenzione e delle procedure. L'inchiesta è stata avviata dalla Procura di Como Como, in seguito a 26 esposti da parte di familiari delle vittime e del personale sanitario. L'ipotesi di reato è omicidio ed epidemia colposa. Risalgono, seppur di poco, i contagi per coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 190 nuovi casi, ieri 159. Le vittime sono 5. Lunedì erano state 12, il totale dei morti dall'inizio dell'emergenza è 35.171. 3 le regioni senza nuovi casi, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. Piazza Affari ha chiuso in rialzo, facendo meglio del resto d'Europa, che si è mosso in ordine sparso dietro ai tentennamenti di Wall Street. L'indice FTSE MIB ha segnato un aumento dell'1,21%. Sulla scomparsa di Viviana Parisi e del figlio Gioele, di 4 anni, avvenuta sull'autostrada A20 Messina-Palermo, indaga la procura di Sant'Agata di Militello. Viviana Parisi, 43 anni, vive con la famiglia in un paese vicino a Messina. Al marito ha detto che con il bambino si sarebbe recata in un centro commerciale di Milazzo. Avrebbe dovuto percorrere una trentina di chilometri, invece ne ha percorsi oltre 104. La sua auto, che reca i segni di un lieve incidente, è stata ritrovata nei pressi di una galleria. È emergenza ambientale a Sassari e provincia per un grosso incendio che sta interessando la discarica di rifiuti di Scala R. Sconosciuta al momento la causa, un'enorme nube nera e potenzialmente tossica, visibile a chilometri di distanza, sta minacciando anche Porto Torres, finora protetta dal maestrale che spinge il fumo lontano dall'abitato. E ora proseguiamo il racconto della giornata con i fatti, i commenti, le notizie, gli spunti che arrivano appunto dalla cronaca. Parliamo ora di medicine, parliamo di farmaci. A offrirci lo spunto è il rapporto OSMED, presentato oggi da AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Nel 2019 in Italia sono state consumate ogni giorno 1.604 dosi di medicinali ogni 1.000 abitanti, con un aumento del 2% rispetto all'anno precedente. Il 72% erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale e il restante 28% acquistate direttamente dal cittadino. Circa 7 cittadini su 10, spiega l'agenzia, hanno ricevuto almeno una prescrizione di farmaci. La spesa pro capite e i consumi crescono con l'aumentare dell'età. Nel 2019 la spesa farmaceutica totale, pubblica e privata, è stata pari a 30,8 miliardi di euro, di cui il 76,4% rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale, con un aumento sia della spesa pubblica che di quella privata. E allora siamo in linea con Francesco Trotta, dirigente dell'Ufficio Monitoraggio della Spesa e Rapporti con le Regioni dell'AIFA. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E buonasera al professor Claudio Mencacci, psichiatra e presidente della Società Italiana di Psichiatria. Buonasera. Allora Trotta, come commentiamo questi dati in generale? Ma i dati mostrano appunto un aumento della spesa totale di circa il 6% e mostrano che il nostro servizio sanitario offre comunque una copertura universale, completa, insomma, per quanto riguarda l'assistenza farmaceutica. L'ha ricordato lei, oltre il 75% dei farmaci sono rimborsati dal servizio sanitario. C'è un aumento di questo 6% che è dovuto soprattutto all'aumento dei farmaci acquistati da parte delle strutture pubbliche, quindi parliamo ospedali, ASL, aziende ospedaliere, e ovviamente anche, diciamo, dovuto all'acquisto dei farmaci, l'acquisto privato dei farmaci, siano essi di classe C che di classe A. E cosa emerge? Emerge, voglio dire, anche una variabilità regionale importante, con un sud che consuma, per quanto riguarda i farmaci dispensati attraverso le farmacie pubbliche e private, quindi la farmaceutica convenzionata, un sud che consuma di più e spende di più. Viene tracciato già un intervento, ecco, in particolare al centro-sud, sui comportamenti prescrittivi della medicina generale, e viene, per quanto riguarda gli acquisti diretti, quindi ospedali, ASD, c'è un sud che spende di più e che consuma di meno. Anche qui segno di un necessario efficientamento delle politiche di acquisto e della prescrizione, quindi una maggiore capacità necessaria, una maggiore capacità delle regioni del centro-sud di effettuare acquisti centralizzati e effettuare le gare sui farmaci. Professor Bencacci, il fatto che gli italiani consumino sempre più farmaci vuol dire che in qualche modo c'è un rapporto un po' malato con la medicina? Beh, rapporto malato no, perché quando andiamo a vedere i dati vediamo che il consumo dei farmaci è soprattutto nella popolazione con età superiore ai 64 anni, cioè ormai il nostro 22% della popolazione è una popolazione matura anziana, che hanno un numero di farmaci che consumano molto elevato, che supera il numero di 10 farmaci ciascuno e consumano il 60% fondamentalmente della spesa. Quindi abbiamo una fascia d'età legata da un lato a questa popolazione e poi ci sono le popolazioni che sono ancora a rischio, che sono quelle infantili e che condensano anch'esse un grande consumo di farmaci, e poi si apre il grande capitolo se andiamo a vedere nell'elenco dei farmaci più consumati, che vanno ovviamente da quelli cardiologici, a quelli gastroprotettivi, agli antibiotici, e arriviamo al sesto posto, che è quello che mi coinvolge di più come neuropsicofarmacologia, che sono i farmaci del sistema nervoso centrale, che sono al sesto posto. Questo ci fa capire che bisogno c'è anche di salute mentale. Trotta, abbiamo appunto letto che è aumentata la spesa, che vengono somministrate più dosi di farmaci, però poi succede quando qualcuno viene ricoverato in taluni casi che dal reparto dicano però si porti i farmaci da casa perché in ospedale non li abbiamo. Perché succede questo? Evidentemente c'è qualche problema di rifornimento negli ospedali, qualcosa non funziona sotto questo profilo. Ma questo, devo dire, andrebbe approfondito maggiormente. A noi appunto risulta che comunque chi è ricoverato all'interno delle strutture, quindi durante il ricovero ospedaliero, riceve tutta l'assistenza necessaria, inclusa l'assistenza farmaceutica. Ora andrebbe approfondito, documentato maggiormente quello che lei dice. Sicuramente, voglio dire, c'è bisogno di efficientare, di migliorare quelle che sono le politiche di approvvigionamento da parte delle strutture pubbliche, ma insomma tenderei, voglio dire, ad escludere che il grosso, diciamo, dell'assistenza farmaceutica, tenderei anzi a confermare che il grosso dell'assistenza farmaceutica sia erogata all'interno delle strutture pubbliche secondo, diciamo, la migliore evidenza disponibile. Sì, queste sono peraltro segnalazioni che ricorrono. Io ho agito su una suggestione di un ascoltatore, però devo dire che ho trovato anche altre conferme. Professor Bencacci, con l'emergenza Covid aumenterà il rapporto con i medicinali da parte degli italiani, a prescindere chiaramente da eventuali contagi? Beh, abbiamo visto come durante il periodo di isolamento, distanziamento sociale, confinamento, cioè siano nettamente aumentati i disturbi, soprattutto di carattere emotivo. Le persone sono state soprattutto coinvolte in quello che sono state una sintomatologia legata ai disturbi del sonno, ai disturbi d'ansia, sintomi depressivi, e poi molte persone, soprattutto con patologie croniche, hanno dovuto provvedere a ricevere i farmaci. Questo un plauso va veramente alle farmacie e ai farmacisti, che hanno fatto veramente un'opera, sia quelli ospedalieri sia quelli delle singole farmacie, un'opera di grande sostegno a quella popolazione fragile, perché noi ci dimentichiamo che abbiamo tanta popolazione fragile che aveva bisogno di una continuità di assistenza e di contributo, e lo stesso dicasi per la medicina generale, che è rimasta sempre attiva e presente in tutto il periodo del Covid, che continua ancora, non volevo No, beh, certo, noi diamo conto, anche se poi noi riceviamo, devo dire, un numero di messaggi sempre abbastanza significativo di chi dice smettetela di fare terrorismo, è finito tutto, però voglio dire, noi leggiamo le notizie che vengono dal mondo, che vengono dall'Europa, che vengono da paesi molto vicini a noi ed evidentemente il quadro è purtroppo ancora in evoluzione. Francesco Trotta, prima si accennava ai medici di famiglia, talvolta non c'è... così l'eccesso talvolta dei medici di famiglia di fare un po' troppo i notai e quindi prescrivere farmaci sulla base talvolta anche di autodiagnosi da parte dei pazienti? Ma devo dire che insomma la medicina generale è un interlocutore importante del paziente, del territorio, ma anche voglio dire dell'agenzia. In particolare in questa fase appunto desidero ricordare insomma che di recente, la settimana scorsa, abbiamo proprio presentato un rapporto dedicato sull'uso dei farmaci durante l'epidemia da Covid-19, dove viene analizzato anche il territorio, ecco, e emerge che comunque per quanto riguarda le principali patologie croniche che sono comunque gestite dalla medicina generale, l'assistenza ha tenuto, ecco, ha continuato a essere presente, a essere soddisfacente nonostante diciamo l'epidemia. Abbiamo analizzato i farmaci per l'apparato cardiovascolare, l'ipertensione, il diabete e non emergono differenze tra l'inizio, tra prima dell'epidemia Covid e dopo l'evento, quindi durante l'epidemia Covid. Quindi la medicina generale ha tenuto, è importante, è un presidio diciamo dell'assistenza farmaceutica, dell'assistenza sanitaria voglio dire sul territorio e operano diciamo sono un presidio del servizio sanitario in ogni paese. Ecco, questo qui è una cosa importante che è venuta fuori in particolare durante l'epidemia da Covid-19. Allora, io ringrazio gli ospiti di questo segmento di Effetto Notte Estate, che l'abbiamo inserito con le notizie che si accavallano dal Libano, e sono il professor Claudio Meccacci, psichiatra, presidente della Società Italiana di Psichiatria. Grazie, buonasera. Buonasera. E grazie a Francesco Trotta, dirigente dell'Ufficio Monitoraggio della Spesa e Rapporti con le Regioni dell'AIFA. Buonasera anche a lei. E buonasera, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie. Grazie a voi per essere intervenuti. E per quanto riguarda le notizie che arrivano da Beirut, l'aggiornamento che riguarda i nostri militari, la forte esplosione avvenuta all'interno del porto di Beirut, vi leggo testualmente una delle ultime agenzie, ha coinvolto un team della missione Unifilm. La conferma arriva dallo Stato Maggiore della Difesa. Sul posto, in stretto coordinamento con le forze di sicurezza libanesi, sono intervenuti i soccorsi del Sector West di Unifil, che stanno provvedendo all'evacuazione del personale. Sono in corso gli accertamenti da parte appunto di Unifil e delle forze di sicurezza libanesi per accertare la dinamica dell'accaduto. In una nota si spiega che un militare italiano del contingente ha riportato lievi ferite. È stato lo stesso militare a informare direttamente i familiari sul suo stato di salute. Queste le ultime notizie da Beirut. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Effetto Notte Estate. 20:16:37, ultima parte di Effetto Notte Estate. Vi aggiorniamo, come state seguendo, su quello che accade a Beirut a proposito della causa dell'esplosione. Secondo un alto funzionario della sicurezza libanese, i materiali esplosivi che potrebbero essere all'origine delle violente esplosioni nella zona del porto di Beirut erano stati confiscati e tenuti in un magazzino per anni. Sembra che ci sia un magazzino contenente materiali confiscati da molto tempo, ha detto il direttore generale della sicurezza. I servizi interessati stanno conducendo le indagini e diranno qual è la natura dell'incidente, ha aggiunto appunto questo direttore generale della sicurezza. E chiaramente, facendo una nuotata lontano dal porto di Beirut e purtroppo dalla tragedia che raccontiamo, parliamo di cose più banali, più futili. Siamo nell'ultima parte, andiamo in genere al bar, andiamo al bar sport, in genere prendiamo un aperitivo con Dario Ricci, che è collegato con noi. Buonasera. Però paghi te, Andrea. Beh, io francamente sai che ho qualcosa, però temo siano falsi. Se puoi provvedere te, preferisco. Sai che le mie origini impongono molta sobrietà, parsimonia. Parsimonia. Va bene, allora offro io questa sera. Allora, offri. Allora, innanzitutto, ora finito il campionato, ci avviciniamo alle coppe, no? Chiaramente parliamo di calcio. Sì, c'è la settimana delle coppe. Questa pandemia ci ha regalato, e certo non avremmo voluto né questo né gli altri amari regali che ci ha fatto, queste coppe d'agosto. Per tanti ormai lo sappiamo bene, è un paio di mesi che ne parliamo, non è calcio, non è vero calcio, ma queste sono le coppe che ci sono date in questa stagione, quindi vanno onorate e possibilmente vinte, caro Andrea. Comincia domani l'Inter, che arriva chiaramente scossa dal caso Conte, un Conte che però sta tentando di ricucire, o almeno diciamo dal suo punto di vista di farsi capire meglio. Ecco, ascoltiamolo un attimo Conte. È una competizione importante per noi tutti, soprattutto per l'Inter, e quindi dovremmo essere bravi a cercare di dare il massimo e non avere rimpianti. Il massimo non sappiamo dove ci porterà. L'importante, ripeto, è non avere rimpianti fino alla fine, saper di aver dato tutto, così come abbiamo dato tutto in campionato e nella stagione, ecco. Parole abbastanza chiare, anche diciamo un po' scontate, no? Sì, beh, credo che insomma in questo momento il basso profilo sia consigliabile per Conte, visto che insomma sabato la sparata è stata piuttosto forte, con i vertici del club c'è ancora un certo gelo, attenuato solamente dalla telefonata definita cordiale dall'interno del club stesso col presidente Zhang, però è chiaro che tutti adesso si aspettano la risposta del campo contro un Getafe che è squadra rognosa, ma che sicuramente aveva fatto meglio in campionato prima della lunga pausa imposta dal Covid. Nella seconda parte, nella ripresa, nella Liga è uscita dalle 4 per la Champions, ma comunque squadra molto, molto solida, rispetto alla quale però l'Inter, che abbiamo visto almeno sabato con l'Atalanta, deve necessariamente farsi carico dei favori del pronostico. Le altre verranno presto. Sì, perché ce ne abbiamo una al giorno fino a sabato. Verrà poi Roma-Siviglia, ricordiamo che l'Europa League gioca questi ottavi di finale, almeno per quanto riguarda gli italiani, in gara secca e in campo neutro, si gioca in Germania, dove ci sarà poi anche la finale il 21 agosto. Sarà Roma-Siviglia, un incrocio di tante storie, perché proprio contro il Siviglia, ad esempio, Dzeko, bandiera della Roma, esordì in giallo-rosso. Ci sono tanti ex italiani, mi vengono in mente Suso, l'ex milanista, e poi anche l'ex direttore sportivo della Roma, Monchi, ma soprattutto c'è un grande assente, perché questo è un regolamento un po' folle messo in piedi dopo la pandemia, priva la Roma di Smalling, il suo punto di riferimento difensivo, perché praticamente il Manchester United non ha prolungato il prestito. Manchester United, che tra l'altro è protagonista della competizione, quindi da questo punto di vista mi dispiace molto che la UEFA e la FIFA non siano intervenute per prorogare naturalmente quei contratti che sono andati invece in scadenza il 30 giugno, no? Quindi da questo impiccio la Roma si ritrova senza uno dei suoi giocatori più importanti. Poi venerdì c'è Juventus-Lione, un'altra partita chiave, non solo per il sogno o l'incubo, chiamiamolo come vogliamo, Andrea, della Champions della Juventus, ma a questo punto anche per la panchina di un Sarri che è sempre meno stabile alla guida di una Juventus, dove addirittura si dice, fonti autorevoli, la stampa francese ha detto che Ronaldo sarebbe abbastanza stancato della situazione e starebbe flirtando col Paris Saint-Germain, e alcuni siti hanno addirittura detto che Sarri avrebbe già salutato i giocatori, perché praticamente certo di andar via, in quel caso potrebbe arrivare Simone Inzaghi. Insomma, Vedremo. Ecco, a proposito di campagna acquisti, beh, in genere è il tema portante dell'estate, chiaramente la competizione agonistica in corso ha tolto pathos a tutto questo. Quali sono le ultime bombette di questa che arrivano dai giornali, che arrivano dagli ambienti ben informati? Beh, oddio, guarda, mi viene da citare, anche per non far torto ai tifosi napoletani, visto perché poi sabato c'è Barcellona-Napoli, Barcellona è sinonimo di Messi, no? E quindi torniamo all'inizio del nostro discorso, questo anche in questo caso questo flirt che sarebbe nato sull'asse Milano-Barcellona nel tentativo di... Ma è vera secondo te? Sì, secondo me può starci, no? Che qualcuno provi a portar via da Barcellona Messi, in questo caso anche l'Inter. Poi ci sono degli ostacoli oggettivi, che sono l'ingaggio di Messi, che è il più alto al mondo, una cinquantina di milioni di milioni annui. C'è il legame particolare di Messi con Barcellona, che è diverso anche da quello pur profondo che legava Ronaldo a Madrid, perché Messi a Barcellona di fatto ci è cresciuto e il Barcellona si è preso cura sia di lui da piccolo, con tutte le sue vicissitudini, sia dell'intera sua famiglia. E poi c'è anche il fatto che, ecco, magari con un allenatore come Conte, sempre che poi rimanga Conte, insomma, è più facile far la faccia brutta, con tutto il rispetto, a Gagliardini piuttosto che a Messi, no? Quindi non mi sembra proprio un'alchimia che possa portare a qualcosa di buono, anche se poi sia le persone cambiano, sia i giocatori cambiano maglia, quindi insomma tutto è possibile, Andrea. Oggi si è parlato, e cambiamo diciamo così argomento, si è parlato anche del protocollo in vista della ripresa, c'è Gravina preoccupato? Eh sì, perché questo protocollo che ha permesso miracolosamente, insieme all'impegno di tutti, in particolare del presidente Gravina, a cui ha dato questo grande merito, va riconosciuto, cioè il protocollo medico che ha permesso la conclusione di questo campionato, chiaramente ha delle situazioni d'eccezionalità che chiaramente sono difficilmente riproducibili su un periodo più ampio, a partire dai costi per arrivare poi anche alla frequenza, all'intensità dei tamponi, no? Rispetto ai giocatori. Quindi chiaramente dovrebbe essere in qualche modo adeguato, ipotizzando un campionato che finalmente possa svolgersi con tempistiche più cadenzate a partire dal 19 settembre prossimo. Staremo a vedere. Altra cosa che ha detto Gravina, dice: ben difficile immaginare già a quella data, al 19 settembre, dei tifosi negli stadi, quindi dobbiamo metterci un po'... Beh, la vedo molto difficile, difficile. Però dobbiamo sperare almeno che il campionato possa svolgersi adesso con tempi più cadenzati, con procedure e quindi anche un protocollo che per gli atleti possa essere un po' più gestibile, per le società, chiaramente non faccio riferimento tanto alla Serie A, ma anche per le altre categorie, con costi più gestibili. Considera, e chiudo, Andrea, che la bolla di Orlando in Florida, dove la NBA si è segregata per garantire la sicurezza e lo svolgimento del campionato, costa più di $1 milione al giorno, ma quella è l'NBA, quindi insomma fanno fatica loro a permettersela. Da questa parte i costi sono sicuramente inferiori, ma comunque ingenti, insomma. Grazie Dario, grazie. 20:26 finisce qui effetto notte estate, ma prima della sigla l'ultimo aggiornamento da Beirut. Beirut è una città distrutta e le esplosioni di oggi sembravano Hiroshima, lo ha detto ad una emittente libanese trattenendo a stento le lacrime il governatore Aboud. Ha definito quanto accaduto un disastro nazionale senza precedenti. Aboud si è recato sul luogo dell'esplosione al porto di Beirut. Ripeto la notizia che stiamo seguendo ormai da un'ora: 10 almeno i morti, centinaia i feriti in seguito a queste esplosioni avvenute al porto di Beirut, feriti in maniera non grave anche 2 militari italiani. Termina veramente qui Effetto Notte Estate, grazie in regia Valeria Bernardi, in redazione in assistenza Valentina Ternullo, Laura Vanossi, Alessandro Schirano, da Andrea Ferro, grazie per l'attenzione e l'ascolto. Noi ci risentiamo domani 18:30.